Ma la situazione di Santa Cecilia è paradossale, io mi sono dimesso perché Santa Cecilia, se risparmia riducendo il numero dei concerti, perde di più, perché noi abbiamo le masse artistiche che dovremmo tenere a casa, noi stiamo occupando tutti gli spazi possibili e immaginabili, 2 anni fa abbiamo fatto circa 900 appuntamenti annuali, l'orchestra adesso sta partendo per una tournée di 9 concerti in Europa, poi ne faremo nelle altre parti del mondo nel corso dell'anno, saremo a Salisburgo per la prima volta nella storia, noi facciamo tutta questa attività. Lo Stato ci ha ridotto gradualmente e quest'anno non ce la facciamo più. Il problema è che il risparmio che poi lo Stato comporta è miserrimo, perché a conti fatti col nostro pubblico che è in aumento paradossalmente in questo momento di crisi, con la grande attività che facciamo e con le entrate che ci vengono dall'estero che sono... Noi restituiamo allo Stato 2/3 di quello che lo Stato ci dà, quindi il risparmio è grottesco e si sacrifica la più antica istituzione musicale del mondo attiva. Noi abbiamo 440 anni e siamo ancora non in piena attività, ma in super attività.